Ancora ti attirano le chincagliate cinesi ancorché tossiche, le cianfrusaglie di vetro o porcellana, il ciarpame e le scarpe alla moda. Sei un'allegra consumista e compri 10.000 euro di azioni proprio nel mentre che le borse cadono e si alzano e ricadono sempre più fragorosamente. Sarebbe come andare alle svendite e non comprare neppure un cappottino, mi hai detto, come una fiduciosa nel futuro delle destre mondiali, come una che sa sempre il fatto suo quanto all'impavido incremento del proprio capitale. Affilo le cesoiuzze, il coltellin dolente, ma consapevole che un filo interdentale mi sarebbe al momento meno inutile. Non avrei mai creduto di vedere la fine del capitalismo, dice Bruno, bisbigliando circospetto di un sorriso che ci dobbiamo pudichi nel ricordo di un'amicizia adolescenziale. Ma che fine del capitalismo! Io vedo piuttosto la permanenza dei soliti bruti, arroganza, ignoranza, ben disse stante il potere, Gomorra come prima, più di prima, e nessuno, io compresa, che provi per più di un secondo di seguito un po' di vergogna. Quando da ragazzini Bruno ed io facevamo gli anarchici Ugo Foscoli, Silvio da un pezzo faceva i Berlusconi. I soldi non contano nulla, l'ha detto il Papa. Cade e si rialza e ricade come un Gesù durante la Via Crucis. Ma senza che ci si aspetti la salvezza né ci prema, quelli con le borse sotto gli occhi molto spesso sono sexy, ma deve essere solo un leggero rigonfiamento di pelle spessa e accolte da un sorriso franco e diretto, nulla a che vedere con le bolle di liquido nerastro o violaceo che premono sotto pelle nella sottile zona bassa perioculare dei vecchi oppure di quella bella ragazza che ha preso dritto in un occhio il cellulare del fidanzato, per scherzo sì, ma iniettato di sangue l'occhio involontariamente non resiste allo sprizzare odio ferino. Pietà per i broker, per i commessi, per i promoter o chi cazzo sono che strillano a Piazza Affari, non ne sento purtroppo o per fortuna e non mi preme la nostra salvezza.